Mi Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Telesforo, ben ritrovati qui su Radio 24 per un altro appuntamento del nostro soundcheck. Addirittura questa è la prova del suono numero 131. Prima di dare il via alla musica vorrei ricordarvi l'indirizzo di posta elettronica per inviare le vostre mail e quindi richiedere tutte le informazioni sui brani in airplay al nostro soundcheck. L'indirizzo è soundcheck@radio24.it e oggi vorrei celebrare la figura e le composizioni di Bill Withers. Sì, Bill Withers, nato il 4 luglio del 1938, è ancora oggi considerato uno dei grandi compositori del songbook americano legato alla soul music e all'R&B. Pensate che da ragazzino il nostro Bill Withers vive in una piccola cittadina chiamata Slab Fork in West Virginia, dove la principale occupazione dei maschietti è lavorare in miniere, quindi proprio per evitare di fare lo stesso lavoro del papà e degli altri amici, si arruola nella Marina statunitense, dove assembla parti di aeromobili per la Douglas. Contemporaneamente impara a suonare la chitarra, inizia a scrivere le sue canzoni e a esibirsi nei piccoli club in giro per gli Stati Uniti. E proprio in questo periodo, suonando nei club, la sua canzone principale, Ain't No Sunshine, viene ascoltata e il provino di Ain't No Sunshine arriva nelle mani di Clarence Avant, che decide di produrre così il primo disco di Bill Withers, affiancandolo in studio di registrazione a un veterano della Stax Records come Booker T. Jones. In questo modo nasce la carriera di Bill Withers, che lavora sodo soltanto in un periodo molto breve fra il 1970 e il 1985, piazzando diverse composizioni nei primi posti delle classifiche discografiche, ottenendo anche alcuni Grammy Awards. Oggi celebriamo Bill Withers, che apre il nostro soundcheck in ottima compagnia, ovvero con il sassofonista Grover Washington Jr., il brano un grandissimo successo intitolato Just the Two of Us. Bill Withers al soundcheck. Just the two of us. Gentlemen, you're listening to Soundcheck. My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me sound check. Il suono della musica. I look for grandma's hand. Grandma's Jazz Hands, brano tratto dal repertorio di Bill Withers che oggi celebriamo qui al Soundcheck di Radio 24 per la produzione di Marcus Miller e le voci bellissime dei Take Six. È il nostro Bill Withers, quindi nel 1970 inizia a ottenere successo con la pubblicazione del primo brano intitolato Ain't No Sunshine, ma in un primo momento rifiutò di dimettersi dal suo impegno con la Marina degli Stati Uniti proprio perché era convinto che lo show business, il lavoro nella musica, era un lavoro in un settore troppo volubile, magari poco serio, e si considerava sempre un novizio rispetto alle grandi star di quel periodo. Fatto sta che quando poi gli presentarono un contratto sostanzioso, capì che in quel modo la sua carriera e la sua vita poteva cambiare, poteva dedicarsi alla musica al 100%, avrebbe potuto aiutare la sua famiglia e fare sicuramente del bene. Del bene lo ha fatto scrivendo le sue composizioni, e allora ascoltiamo la versione originale di Ain't No Sunshine, dura soltanto 2 minuti, e subito dopo la versione contemporanea di Lovely Day realizzata dal pianista Robert Glasper con i suoi Experiment, tratta dall'ultimo album intitolato Black Radio 2. Bill Withers e Robert Glasper al Soundcheck di Radio 24. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Hey, Robert Glasper, how you doing, bud? When you gonna record one of my songs, huh? You big knucklehead. Soundcheck, il suono della musica. Soundcheck, prova del suono, quella di oggi dedicata alla figura e alle canzoni scritte da Bill Withers in un periodo che va fra il 1970 e il 1985, quando Bill Withers decide di lasciare lo show business e di godersi quindi tutti i diritti d'autore e le royalties realizzate con le sue meravigliose composizioni e i suoi album. Bill Withers viene ancora oggi celebrato e lo ha fatto ultimamente, l'anno scorso, anche una cantante olandese giovanissima, molto brava, si chiama Sabrina Stark, che coinvolge il maestro Vincent Mendoza per gli arrangiamenti e le orchestrazioni per realizzare così un album completamente dedicato alle canzoni di Bill Withers. L'album si intitola Lean on Me, canzone che oggi è diventata uno dei cavalli di battaglia del gospel contemporaneo. Lean on Me, la voce di Sabrina Stark per la prima volta al Soundcheck di Radio 24. Chiudiamo questa prova del suono dedicata alla figura e alle composizioni di Bill Withers con uno dei momenti più emozionanti della sua carriera. 1972, grandissimo concerto alla Carnegie Hall di New York, la sala è gremita, completamente sold out. Bill Withers propone con un'ottima band tutti i successi del suo repertorio e annuncia una nuova composizione intitolata I Can't Write Left-Handed, non posso scrivere con la mano sinistra, un brano brano ispirato alla storia vera di un reduce del Vietnam che aveva perso il braccio destro e così non poteva scrivere le lettere alla sua mamma. Termina qui il soundcheck con Bill Withers, I Can Write Left-Handed. A tutti voi buona giornata e buona musica da Gigi Telesforo. We recorded this song on October the 6th. Since then the war has been declared over. If you're like me, you'll remember it like anybody remembers any war. One big drag. A lot of people write songs about wars and government, very social things. But I think about young guys who were like I was when I was young. I had no more idea about any government.